La rosa purpurea di Franco d'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea di Ferragosto. Un saluto da Franco d'Assisi. Immagino i nostri ascoltatori dappertutto tranne che a casa, proprio in città, ma chissà, magari qualcuno anche ci sta ascoltando come sempre, come tutti i sabati e tutte le domeniche. Puntata ferragostana dove però non mancano le novità al cinema, contrariamente a quello che è successo all'inizio di questo mese di agosto. Anzi, ci sono un paio di film che recensiremo e che tutto sommato possono trovare il loro pubblico. Parleremo però anche del grande Federico Fellini con i 50 anni della Dolce Vita, frequenteremo altri set estivi, continueremo la nostra carrellata in giro per i film più belli della stagione 2009-2010 che si è appena conclusa. Tutto questo nei titoli di testa. Diventa film Il cane Sansone, creato dalla fantasia a fumetti di Brad Anderson nel 1954. A dare la voce all'Alano combina guai il cantante e presentatore Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Due giovani scienziati cercano di creare la vita mescolando il DNA di diverse specie, ma sbagliano e creano un'ibrida chimera chiamata Dren. È la storia di Splice, thriller fantagenetico con Adrian Brody. 50 anni fa Federico Fellini regalava al mondo un capolavoro come La Dolce Vita. Ma che fine ha fatto oggi via Veneto con i suoi paparazzi e le star vere e presunte? Ne parliamo con lo sceneggiatore e regista Italo Moscati. Prosegue la nostra carrellata tra i film più importanti della stagione cinematografica che si sta chiudendo. Oggi analizziamo Il mio amico Eric, Il concerto e il campione d'incassi Avatar. E allora questi contenuti della nostra puntata, noi cominciamo subito con le novità cinematografiche. Come avete sentito dai titoli, arriva sul grande schermo un eroe animato dell'infanzia di molte generazioni, questo cane un po' hippie che era l'Alano Sansone. Lo troviamo, non dico in carne e ossa, diciamo in peli e ossa, nel nuovo film che ci racconta Barbara Righini. Ehi là, io sono Sansone. Se vi state chiedendo perché sono sotto chiave, non è a causa di questo. Sansone! No! Né di questo. Ascolta! Sansone! E neanche di questo. Sansone! No! Ops. Ma perché hanno spedito me e il mio fratellastro via aerea? Fatemi uscire da qui, non sono un animale! Sì, lo sono. Sansone è un pasticcio e questo è evidente. Ha, come si dice, la grazia di un elefante, ma il suo problema non è il fatto di essere maldestro, è che Sansone è fuori misura. È infatti un cagnolone di 90 kg, un simpatico alano e il suo migliore amico è un gattino un po' furfante che parla con un accento spagnolo. Per Sansone la vita è sempre stata difficile, isolato per la sua stazza, non riesce a comunicare con gli altri e di certo per lui il trasferimento nell'altezzosa Orange County, California, non sarà cosa facile, eppure Sansone ne è entusiasta. Qui il parco per cani è come un liceo per cani, ci sono i palestrati e le parruccone. I teatranti, bang bang, e i bulli di razza. La società in California è molto stratificata e il lussuoso parco per cani, super curato, ne è una esemplificazione. È una specie di spocchioso liceo per figli di papà. Sansone è decisamente fuori posto lì. È un bastardino, non è di pura razza e inoltre non sa come comportarsi, nonostante il padrone Phil cerchi di insegnargli le buone maniere anche per fare colpo sul suo nuovo capo. Birillone, fai il bravo, devo sbalordire il mio nuovo capo. Non so di che si preoccupa. Ape! Ape! Il nuovo arrivato si farà comunque degli amici, non di pura razza come lui. I veri problemi inizieranno quando l'Alano metterà gli occhi su un collie. Fra l'altro, la cagnolina è già fidanzata con il capobranco. C'è un nuovo cane in città. Come si chiama? Sansone. Colpa mia, scivolato da sedile. Avere pedigree è sinonimo di eccellenza. Ferdinando parla 6 lingue correttamente, tra cui scoiattolese. At first I was afraid, I was petrified. Richiami da diversi teen movie, trama classica e scontata con morale e lieto fine, ma soprattutto la propensione di Sansone a commentare tutto e tutti. Sansone non è solo mastodontico nella stazza, ma anche logorroico, caratteristica che risulta, dopo poco, insopportabile per lo spettatore, così come l'antropomorfizzazione esagerata degli amici a quattro zampe e l'utilizzo di gag scontate. Sansone è comunque un film studiato per colpire il pubblico dei più piccoli e i bambini di certo si divertiranno e rideranno di tutti i guai che il cagnolone riesce a combinare in un'ora e mezzo di proiezione. E questo era Sansone, la prima delle novità di questa settimana. Fra poco parleremo di un altro film abbastanza particolare, non del tutto riuscito, ahi noi, ma insomma, merita le nostre attenzioni. Si intitola Splice. Fra poco, perché prima vogliamo fare una digressione, una divagazione, e prendere una boccata d'aria. Siamo a Ferragosto e allora set d'estate. Come sapete, in questo agosto 2010 stiamo percorrendo un po' l'Italia a zonzo a cercare le location, i set dei nuovi film che vedremo poi durante la prossima stagione, presumibilmente nell'autunno. Oggi la nostra Chiara Pizzimenti, che è la nostra inviata balneare in un certo senso per questo lavoro, si sofferma sul nuovo film che ha per protagonista Vincenzo Salemme e si intitola Baciato dalla fortuna. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché... 10, 20, 30, 40, 50, 60 sono i numeri che il vigile urbano gaetano Vincenzo Salemme gioca da sempre al Superenalotto. In città tutti lo sanno e tutti lo prendono in giro. Il miracolo però accade, i numeri escono e c'è una schedina vincente proprio al chiosco di Antonio, dove Gaetano gioca sempre. Una vincita da 120 milioni, che però non è del vigile, visto che è arrivato in ritardo a fare la giocata. Tutta la città però pensa il contrario. Soldi, soldi, soldi, tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché... Sull'equivoco si basa tutto il film. I soldi, infatti, potrebbero cambiare la vita di Gaetano, complicata dal mutuo in banca, dagli alimenti alla ex moglie, dalle pressanti richieste della sexy compagna Asia Argento, pronta a scappare con il capo dei vigili Alessandro Gassman. Intanto una psicologa, Nicole Grimaudo, lavora su Gaetano. La mia è una missione proprio speciale, perché vorrei fargli capire, insomma, distoglierlo dal vizio del gioco, fargli capire che nella vita puoi conquistare le cose, non basare tutto solo sulla fortuna, e anche considerare i soldi, insomma, questa smania di diventare ricchi, di avere tutto e subito, insomma, cerco di portarlo un po' su un'altra direzione. Non ci riesco, anzi lui mi considera un'ossessione, non mi sopporta, quando mi vede mi evita. L'Italia di oggi che si affida al gioco per far quadrare i conti in tempi di crisi, un'umanità piccola piccola, piena di debolezze. Questo racconta Baciato dalla fortuna da un soggetto dello stesso Salemme, diretto da Paolo Costella, che così descrive la pellicola. Con Vincenzo veniamo da un film fatto insieme, che era il film di Natale, dove era un film comico puro. Questo è più una commedia umana di sentimenti, e da quello scaturiscono le situazioni per il divertimento, cioè devi creare un legame tra il pubblico e i personaggi, e una volta instaurato quello scaturisce il divertimento. Poi la volgarità è sempre molto soggettiva ed è una misura che devi trovare ogni volta nelle varie situazioni. Il tutto ambientato a Parma, scelta a rappresentare la provincia italiana, come spiega anche uno dei protagonisti, Alessandro Gassman. Credo che la provincia, in particolare la provincia del centro nord Italia, rappresenti, intanto per il suo tenore di vita molto alto, per la qualità della vita che è sicuramente più alta di quanto non sia nelle grandi città, e per il fatto che siano città abbastanza piccole nelle quali tutti si conoscono, renda più attuale, dia più possibilità di riconoscersi e che vera vedere film nella vita di tutti i giorni. Non è mancata però la polemica. C'è chi ha visto nella scelta della città emiliana un tentativo di riabilitazione della locale polizia municipale, dopo che 2 anni fa alcuni agenti aggredirono un giovane extracomunitario. Arriva. Attento. Libera. Eccolo. Il battito è stabile. Sta uscendo. Ma mancano mesi. È scivoloso, è... Che cosa è stato? Uno sbaglio. Ed eccoci ancora insieme alla Rosa Purpura. Abbiamo cominciato con questo clima fanta-horror, anche un po' inquietante, la seconda parte del nostro programma. Un'altra novità al cinema in questo fine settimana, questo Splice, che racconta la storia di 2 giovani scienziati, Clive ed Elsa, che lavorano nell'unità di genetica sperimentale di una compagnia privata. Si sentono sottoutilizzati, un po' frustrati, perché la compagnia non vuole fare il salto di qualità, ovvero produrre ciò che la scienza è già in grado di produrre artificialmente, la vita. E come avete appena sentito nel trailer, Clive ed Elsa si mettono in un certo senso in proprio, facendo nascere prematuramente la loro ultima creatura, che anziché essere l'informe ammasso di cellule sin lì creato dalla genetica ufficiale, si dimostra subito qualcosa di molto più avanzato, un ibrido antropomorfo, femmina, che porta in sé il DNA umano mescolato a quello di molti animali. La chiamano Dren. Si tratta di qualcosa di assolutamente unico al mondo. È vuoto. Clive! Clive! Clive! Elsa, esci subito! È pericoloso! La piccola e velocissima Dren è imprevedibile, scappa dalla sua cuccia e vaga imprendibile per il laboratorio che i due ambiziosi scienziati hanno costruito in un sotterraneo della compagnia in gran segreto. La loro creatura sembra ingovernabile e l'esperimento effettivamente sfugge di mano. Sta crescendo in fretta. In pochi minuti cresce di giorni. È perfetta. Abbiamo passato il limite. Cosa vi aspettavate creandola? Qual era il piano? Non puoi portarla fuori. I campioni non devono uscire da qua. Non chiamarla così. Che sta succedendo? Dren è entrata nell'età adulta, ecco cosa sta succedendo. Cresciuta come una bambina, ma in tempi molto, molto più rapidi, è ora una bellissima donna dalla testa alle ginocchia, da dove si sviluppano due potentissime zampe da canguro e una coda dotata di artiglio letale. È sempre più difficile nasconderla, come potete immaginare, così Clive ed Elsa la portano nella loro casa di campagna. Lì avviene l'ultima metamorfosi e a causarla è l'amore. Dren guarda i due scienziati nelle loro evoluzioni amorose e impara, e una volta rimasta sola con Clive lo vuole tutto per sé, ma come l'amantide sul culmine del rapporto sta per sferrargli l'artigliata mortale quando ecco che alla porta si manifesta un'incredula Elsa, momento di comicità involontaria della serie Cielo mio marito, ma come si fa a essere gelosa di un ibrido di laboratorio? Dren scappa e affronta la sua ultima mutazione. È il disastro che tutti temono, una nuova specie che gira libera per il mondo. Vincenzo Natali, 41enne, regista di Detroit, Michigan, ma canadese d'adozione e con chiare ascendenze italiane, si è rivelato con The Cube, thriller claustrofobico a basso costo che nel 98 ebbe successo in tutto il mondo. Poi, dopo un altro paio di pellicole, Vincenzo si è fermato per 7 lunghi anni. Ora torna con questo Splice, la cui sceneggiatura è stata scritta da Natali proprio 10 anni fa, nel 2000, e rispolverata oggi con l'interessamento decisivo di un maestro del fantasy horror gotico contemporaneo come Guillermo del Toro, che glielo ha prodotto. Un film con intenti morali quanto mai espliciti: l'uomo, la scienza, la vita, dove sta il confine invalicabile, fino a dove possiamo spingerci, le nostre ambizioni metteranno a rischio la nostra stessa specie? Sono tutti interrogativi, temi di assoluta attualità, temi alti che però il film affronta con una certa superficialità. Dopo un inizio teso e interessante, il film allarga le sue maglie narrative fino a sbracare letteralmente negli ultimi 20 minuti. I due scienziati irregolari, un po' punk, sono dipinti con il tipico cliché delle rockstar, tutti borchi e anfibi. Un clima giovanilista a cui si adegua, purtroppo, la recitazione di Adrien Brody, che ormai si è dato all'action. In sala lo troviamo anche protagonista di Predators, e Sarah Polley, protagonista femminile, che sfiora in alcuni momenti il telefilm. Va a finire che la cosa migliore di Splice è il librido Dren, la bellissima chimera alata, cui presta il volto e tre quarti del corpo l'attrice francese Delphine Chanac, davvero molto sensuale Adrien Brody, a tutta la nostra comprensione. E allora, abbandonate le novità cinematografiche di questa settimana, settimana ferragostana, quindi non con tantissimo prodotto, insomma, come avete visto però qualcosa si muove. Noi facciamo un balzo indietro di 50 anni e andiamo nel cuore della dolce vita. Il cuore della dolce vita, perché proprio 50 anni fa veniva alla luce il capolavoro che tutti conosciamo di Federico Fellini, e dei 50 anni della dolce vita e della dolce vita di oggi, che forse è un po' meno dolce di quella che raccontava il film di Fellini, beh, ne vogliamo parlare con un protagonista e di quell'epoca, non perché sia particolarmente là con gli anni, anzi mai io voglia raccontarvi quanti anni ha Italo Moscati, che è in collegamento con noi. Ciao Italo. Io ce ne ho oltre 150. Esatto, ma ne dimostri 15. Allora ero un bambino, però la mia cultura è terminata e arriva e sorpassa quella del cinema, che come tu sai è compiuto un secolo di ormai più di un secolo. Però 50 anni fa La dolce vita, tu hai raccontato, sei uno dei grandi, oltre averlo conosciuto, ma insomma sei uno dei grandi cantori del cinema di Federico Fellini, e anche di quella storia, di quella parte della storia del cinema italiano, cioè di cosa significava Via Veneto in quegli anni. E allora guarda, io ti dico subito che sì, ho fatto un libro che si chiama Fellini e Fellini, da Rimini a Roma, inquilino a Cinecittà, e il film Via Veneto 7, che sono un'ora e 26 minuti che raccontano la dolce vita. Come la racconto? Naturalmente tenendo conto dell'esperienza di Fellini, ma cercando anche di dare al pubblico una suggestione nuova, a chi ha visto il film e a chi non l'ha visto il film, e cioè scoprire il retroscena, l'humus da cui è nato questo grande capolavoro, come dicevi giustamente, perché è un grande capolavoro anche a distanza di tempo. E allora sono andato ad esplorare i documenti, perché questo mi piace fare con il cinema, vedere i cinegiornali dell'epoca, che sono divertentissimi, sfottitori, satirici, prendono in giro il mondo del cinema italiano in modo assolutamente impensabile se confrontiamo alle piaggerie anche della televisione di oggi. E poi il mondo che circondava Via Veneto, che era fatto non solo di politici, di poeti come Ungaretti o di Cardarelli, ma anche era fatto di assassini, e poi dico di donne uccise tantissime, poi di papponi, di prostitute, di ladri, di imbroglioni, di astrologi e via discorrendo. Voglio dire, una realtà molto molto variegata, in cui i paparazzi e il personaggio di Marcello Mastroianni, capo dei giornalisti che oggi diremo di gossip, hanno in qualche modo lanciato nel mondo, facendolo diventare il vero, come dire, elemento di fascinazione italiana. Ancora oggi arrivano pullman di americani a cercare la dolce vita, che a me non c'è più. Via Veneto si è trasformata, ha perso la brillantezza di un tempo, anche perché, come sai, si è scoperto che molti di questi locali sono in mano alla camorra, e quindi questo è un fatto ovviamente che getta un'ombra su quello che era invece lo scintillante Via Veneto del passato. Assolutamente, era un clima molto più lieve in questo senso. Cosa è rimasto, Italo, 50 anni dopo del capolavoro di Fellini? Quanto ci appartiene oggi? Ci appartiene moltissimo, perché racconta il nostro paese, racconta il passaggio dal cinema degli anni 50, che era un neorealismo ormai estinto, che cominciava con Pane, Amore e Fantasia a essere in qualche modo delle commedie sentimentali, brillanti, impeccabili dal punto di vista della fattura, a un cinema che cominciava a entrare nel miracolo economico italiano, che cioè quello che ha fatto conoscere a milioni di italiani il benessere, cose che non era mai successo. L'Italia passava dall'essere contadina a un'Italia industriale, e Via Veneto diventava la vetrina non solo del Made in Italy, ma anche di una voglia di vivere, del piacere, del desiderio, di una certa scanzonata voglia comunque di essere nel presente, di consumare, di avvicinarsi anche ai modelli americani. E Fellini, che invece veniva dalla provincia, pur avendo madre romana, guardava questo occhio con quello di un provinciale sapiente, cioè che sapeva intuire anche che sotto questi fuochi d'artificio qualcosa stava avvenendo, ed era la realtà che poi, come tu conosci e come tutti noi conosciamo, fa sì che l'Italia cambia dal 65, 67, 68 in poi, e ancora ci si interroga su questo cambiamento. Senti, cos'è stato il set della dolce vita? Lì attori, amori, tra Fellini, Mastroianni, insomma tutto il resto, direi che di ormoni in circolo ce ne erano parecchi. Come è andata? Sì, è una grande tempesta ormonale. Tra l'altro questa definizione che tu dai è molto giusta, perché scriveva più o meno nello stesso periodo Umberto Eco qualcosa a proposito di quello che avveniva al Festival di Sanremo e di Rita Pavoni, cioè una tempesta ormonale colpiva i giovani italiani. Allora erano tutti, come dice un film diretto da Dino Risi, erano poveri ma belli, ed erano poveri ma belli Renato Salvatori, ma anche Marisa Allasio, Maurizio Arena, tutti i ragazzi, e vivevano questa realtà molto distante da quella di oggi, delle veline, delle escort, eccetera, perché succedevano delle cose anche di un'ingenuità disarmante che racconta Novella Parigini nel mio film, cioè bastava che due persone si vedessero sedute al bar a prendere un innocente gelato perché appunto i giornali, i settimanali, i rotocalchi si scatenassero a inventare storie amorose, erotiche, e che comunque sia, poi sono state documentate, e c'era un intreccio in modo particolare, quello tra le attrici e i nobili. Gli aristocratici erano in gran massa a Via Veneto, anche a cominciare per esempio da alcuni esponenti della famiglia Agnelli, che come tu sai pare che siano addirittura discendenti di Carlo Magno, andavano lì e trovavano queste attrici giovanissime, molto belle, molto disponibili. Questo poi nel privato non entriamo, ma sappiamo in questi giorni che Anita Ekberg ha dichiarato che il vero amore della sua vita è stato Giovanni Agnelli. È stato veramente uno scoop a scoppio ritardato. Assolutamente. Grazie Italo Moscati per averci fatto rivivere un pezzo della dolce vita. Ciao. Ciao. Marcello, come here. Hurry up. Sì, Silvia. Vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei. Sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. Come abbiamo fatto già, come facciamo già da qualche settimana, stiamo rianalizzando, riscoprendo cronologicamente, viaggiando nel tempo della stagione cinematografica 2009-2010 per tirare fuori quelli che sono i film secondo noi migliori per tanti motivi, perché hanno avuto un impatto sul pubblico importante, perché sono piccoli film di nicchia che però hanno detto qualcosa, perché ci hanno sorpreso magari, e così è anche in questa puntata nella quale riprendiamo le fila a partire dall'inizio del mese di dicembre per spingerci fino a febbraio e scavallare così l'inverno 2009-2010. Nel 5 dicembre precisamente arrivava nelle sale cinematografiche italiane il film di un regista tanto amato, tanto apprezzato, di grande coraggio, di grande impegno civile, come Ken Loach. Ancora una volta Ken Loach metteva in chiave di commedia, che è una cosa che gli riesce molto molto bene, gli è riuscita bene spesso anche in passato, forse meglio che non quando si è preso un po' troppo sul serio. Dicevo, metteva in chiave di commedia un tema sociale importante, quello della fatica di tirar su magari figli scapestrati quando si è uomini soli e separati, di mezza età, quello dell'affrontare i propri sogni e i propri punti di riferimento anche con un po' di paura. E quello che accade al protagonista del Mio amico Eric, Looking for Eric, il titolo originale, nei panni del protagonista appunto c'è un uomo che non fa altro che parlare con un'icona del calcio e del Manchester United come Eric Cantona. L'avevamo raccontato così. Ciao ragazzi. Ciao. Arrivato, ciao. Come va? Guarda un po'. Che cos'hai lì? Che peccato, eh? Ma questo lo rimette in piedi. Che cos'è? Ha scritto uno con le palle. Ah. Che roba? Da fare a me. Hai rifatto razzia nel reparto di autoaiuto. Dovrebbero bandirti dalle librerie. Se provaste ad aprire le vostre menti microscopiche, imparereste qualcosa. Eric ha bisogno di ridere. C'è scritto lì. Secondo quel libro, ridere è la medicina migliore. Francamente, se fossi al posto di Eric, preferirei farmi una bella scopata. Ti offri volontario? No. Offro volontario Jack. Offri tua sorella. Ora l'importante è cercare di far ridere Eric. Molto bene, uno alla volta, andiamo da lui. Li avete sentiti? Sono i personaggi del cinema di Ken Loach, i suoi personaggi archetipi, operai, impiegati, working class britannica, piena di buonsenso e di ribellione. Sono loro gli alfieri del regista inglese anche in questo nuovo film, Looking for Eric, che in Italia esce appunto con il titolo di Il mio amico Eric. Dove Eric, l'Eric che si cerca, è il protagonista del film, un altro uomo solo, lasciato dalla donna amata ben 7 anni prima. Eric è ancora in evidente stato depressivo e allora cerca di attaccarsi a quello che lo fa star meglio il tifo per il Manchester United. Anche questa a suo modo una sua religione. Nella venerazione del giocatore che più gli assomigliava per estrazione e carattere, un altro Eric Cantona, ex attaccante francese del Manchester, ma soprattutto icona di un calcio maschio, ruvido, leale, non patinato, il famoso calcio che, si suol dire, non è più quello di una volta. E quando i desideri e la realtà si fondono, i due Eric cominciano a parlarsi. Hai mai fatto qualcosa di cui ora ti vergogni? Beh, e tu? Porca puttana, ma che cazzo? Sei tu veramente? Sì. Allora di qualcosa in francese. Ma je suis Eric Cantona. Porca troia, sei tu. Cazzo, è impossibile. Aspetta che questa cosa vengano a sapere i ragazzi. Loro ancora ti adorano. Da quel momento comincia la rinascita di Eric, il postino, che quando ha bisogno sa di poter contare sul suo amico immaginario, che eroga però consigli dannatamente concreti. Il momento più bello di tutti. È stato un passaggio. Un passaggio? Sì. A Irwin, contro gli Spurs, sì! Splendido! Sapevo quanto era bravo, sia di sinistro che di destro. Era veloce come un lampo, io ho toccato d'esterno, tutti sorpresi. Lui ha tirato in corsa e il mio cuore ha preso il volo. Un regalo? Sì, quasi un'offerta, al grande dio del calcio. E se avessi sbagliato? Devi fidarti dei tuoi compagni, in ogni caso, altrimenti tutto è perduto. Il mio amico Eric, 1.200.000 euro di incasso, non tanta roba, insomma, non è che sia andato benissimo in Italia, però come dico, questo nel nostro viaggio è totalmente ininfluente, nel senso che il film di Ken Loach è stato sicuramente comunque uno dei più divertenti film d'autore visti quest'anno. E proprio perché i pesi e le misure possono variare indipendentemente dall'incasso, subito dopo arriva il film campione di incassi della storia del cinema mondiale. È stato il film che ha assolutamente colonizzato l'attenzione mediatica per mesi in Italia e in tutto il mondo. La sua uscita verso la metà di gennaio, subito dopo le feste, qualcuno aveva detto ma chissà come andrà dopo Natale, non ha raccolto il pubblico natalizio. Invece hanno fatto molto bene quelli che lo hanno distribuito e hanno fatto uscire Avatar. Avete capito, stiamo parlando ovviamente di questo film di James Cameron, che ha dato una nuova logica proprio anche alla fruizione del film. Per esempio è quello che ha aperto, spalancato, sfondato definitivamente le porte alla fruizione in 3D. E allora, Avatar usciva il 16 gennaio, alla fine del suo sfruttamento, lo troviamo ovviamente di gran lunga primo in classifica, ha portato a casa qualcosa come 66 milioni di euro di incasso, un incasso che non si era mai visto nella storia del cinema italiano. E allora noi andiamo a recuperare il nostro racconto di Avatar, ancora denso dell'emozione della prima visione, il 16 gennaio scorso. Siete su Pandora, signor. Signore e signori, non dimenticatelo, ogni secondo di ogni giorno. Se esiste l'inferno, avrete voglia di visitarlo per trovare un po' di pace dopo aver fatto una passeggiata su Pandora. Laggiù, oltre quel recinto, ogni creatura vivente che striscia, vola o si acquatta nel fango vorrà uccidervi e mangiarvi gli occhi come fossero giuggiole. Su Pandora, come avete capito, non è che ci sia il mondo più ospitale che possa capitare in una galassia dell'universo. E che ci fanno gli uomini su Pandora? Naturalmente cercano fonti di energia per la Terra, che nel 2154 dovrebbe essere conciata anche peggio di adesso. I pericoli di Pandora sono tali che gli umani hanno pensato a un vecchio stratagemma: infiltrare un Marines fra i Na'vi, la popolazione indigena di Pandora, introducendo il suo pensiero in un avatar, un corpo esterno creato con il DNA di quegli umanoidi lunghi e azzurrini. Viene scelto Jake Sullivan, costretto alla sedia a rotelle da una battaglia finita male. Per lui arriva presto il momento di effettuare il primo viaggio su Pandora nel corpo del suo avatar. Sovrintende la tosta scienziata Grace Augustin, al secolo Sigourney Weaver, che descrive così il suo personaggio. Grace is a wonderful Grace è una donna fantastica, complicata, che ha deciso di mettere anima e corpo in questo mondo alieno, invece di cercare le tradizionali soddisfazioni offerte dal mondo umano. Per me è stato affascinante recitare in questo ruolo.

Ecco perché la Romania non sarebbe stata sufficientemente rappresentativa in questo senso. Avevo bisogno dei sentimenti e dei desideri così estremi della Russia. La musica, secondo lui, ha diciamo questa potenza, questa capacità di essere metafora, di diventare un linguaggio per spiegare dell'altro, raccontare dell'altro? Sicuramente la musica è il linguaggio universale e il termine universale è particolarmente appropriato se consideriamo la musica come energia in grado di mettersi in relazione con l'energia che ognuno di noi ha dentro di sé e che utilizza per comunicare con l'universo in cui si trova. In Francia si dice che ognuno di noi ha la sua musica interiore. Anche se non sappiamo suonare uno strumento o non capiamo molto di musica, abbiamo comunque un ritmo che è quello che ci consente di entrare in contatto con il ritmo degli altri. Attraverso la musica, il ritmo e questo scambio di energia possono accadere delle cose miracolose. Così parlò Radu Mihaileanu, regista del concerto nella puntata della Rosa Purpurea del 6 febbraio, la nostra terza stagione, terza parte dell'anno, del meglio della stagione cinematografica appena conclusa, si chiude qui. Settimana prossima il gran finale, arriveremo praticamente ai giorni nostri con una primavera tutta italiana, con i film italiani che hanno forse più incantato durante l'anno. Quarta parte della Rosa Purpurea, eccoci qua con le novità dagli Stati Uniti, come sempre la nostra vetrina sul cinema americano, Trailer USA, sempre aperta. Tra qualche giorno, dopo aver riscosso un ottimo riscontro al Sundance Film Festival di Robert Redford, esce sugli schermi americani Cyrus, un film dei fratelli Duplass con John C. Reilly, Catherine Keener, ma soprattutto Marisa Tomei, la fidanzata del wrestler Mickey Rourke. È un film interessante, toccante, un rapporto quasi incestuoso tra una madre single e il suo unico figlio, ma ci spiega tutto come sempre la nostra Micaela Bellisario. Ciao Franco, sì, in effetti questo è un film che per certi versi non ti aspetti, nel senso che inizia in modo molto divertente e finendo poi invece per toccare corde drammatiche, tanto da lasciare lo spettatore alla fine disorientato e un po' turbato. E Cyrus è la storia, come dicevi, di una donna single con figlio 17enne a carico, a tratti psicotico, e del suo incontro con un uomo solo, senza amici, appena piantato dalla moglie, che si sta per sposare con un altro. I due si incontrano a un party e devo dire che l'incipit del film è strepitoso, con il protagonista che canta al karaoke durante questa festa Don't You Want Me, un pezzo famoso anni 80 degli Human League, e canta nell'indifferenza generale. In questo pezzo del trailer sentiamo lui attaccare bottone con una ragazza che però non gli bada affatto, anzi gli dice che in realtà sta parlando con una persona e di non scocciarla. Don't you want me? I have so much to give, you know, I have all these gifts. I'm a blast. We're kind of like having a conversation here. Oh. Okay, I'm gonna have some conversations too here eventually. Questo dunque è l'inizio del film, poi avviene l'incontro che scombina le esistenze dei due protagonisti. Lui trova finalmente la donna dei suoi sogni e lei trova, diciamo così, l'uomo della sua vita, e la protagonista è interpretata peraltro da una bravissima Marisa Tomei. I due si conoscono, chiacchierano, flirtano e finiscono subito a letto insieme a casa di lei, in un sobborgo di Los Angeles, ma sul più bello irrompe Cyrus, ovvero il figlio di lei, ed è subito uno shock per lui, che si ritrova la mattina dopo a che fare con questo ragazzo un po' particolare che adora in maniera spropositata la madre. Tra i due, dopo una partenza soft, iniziano gli attriti. Sono due uomini che in realtà si contendono la stessa adorata donna. Cyrus arriverà addirittura in un momento di ira a brandire un coltello per tentare di uccidere l'amante della madre. In questo passo del trailer vi facciamo sentire un'accesa discussione tra i due. I love being with you. Hey guys. Sorry for interrupting you. She has a grown son. Oh my God. I'm Cyrus. Perfetto, grazie Micaela. Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni dagli Stati Uniti a Trailer USA. Ciao Franco, alla prossima settimana. Ed eccoci allora nella zona delle nostre visioni domestiche e soprattutto quelle in un video che non si fermano neanche durante questo weekend ferragostano e abbiamo in collegamento Claudio Pofi, probabilmente da qualche località balneare particolarmente pregiata. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto, in realtà in montagna. Ecco, no, ti immaginavo con le paperelle, invece non è così. Senti, ci sono ovviamente film di cui parlare, il mercato delle uscite on video non si ferma, insomma ecco, qualcosa è uscito anche all'inizio di questo mese e noi siamo qui a raccontare un po' qualche consiglio per una bella serata cinematografica casalinga anche in vacanza. Cominciamo con un film, diciamo, di forte azione come Codice Magnum, ascoltiamo la clip. Voglio che tu riesca ad infiltrarti nell'organizzazione di Patro Vita e poi distruggerla. Secondo te ho la faccia del mafioso? Secondo me hai la faccia di uno che sta male. Hai una cura? Probabile reinserimento. Rientro nell'FBI. Come? L'FBI da oltre un anno cerca di infiltrare agenti nella famiglia di Patro Vita, ma ci sono delle soffiate. E i nostri ragazzi ci rimettono la pelle. Ecco perché solamente io saprò di te e nessun altro. Ex federale diventato sceriffo, Mark Kaminsky è chiamato nuovamente in azione dal capo dell'FBI per vendicare la morte del figlio, agente operativo ucciso da uomini del clan mafioso Patro Vita. Sotto falsa identità, Mark entra a far parte del gruppo di criminali deciso a far piazza pulita di tutti i cattivi. Uno dei momenti meno esaltanti della carriera anni '80 di Schwarzenegger, per comunque un film macistico nel periodo in cui l'attore austriaco, tra l'altro, era in stretta competizione con Sylvester Stallone, all'epoca nelle sale col poco dignitoso Cobra. Da Universal arriva il Blu-ray inedito di ottima qualità, c'è un po' di grana che si fa relativamente sentire, la traccia a due canali DTS ad alta risoluzione in italiano è poco efficace rispetto a un film di genere, migliore addirittura la sei canali in francese. Come extra segnalo un approfondimento sulla carriera di Schwarzenegger e 9 minuti sul film. Un film invece totalmente da riscoprire, forse anche da scoprire per molti, è La Banda del Brasiliano. Io pago l'affitto, Me lo sai dire tu, me lo sai dire? Che cazzo mi invento, E voi che ci rompete il cazzo con il vostro paternalismo di merda e con la vostra pietà dei democristiani di sta grande furcia di minchia, Sei precario, vero? Sì, allora riboccati le maniche come faceva papà e ti va a cercare un lavoro, vero? Re del lavoro fisso di sta minchia, ma pure per noi è difficile. Andami negli uffici di collocamenti, il lavoro era reale, capito? Non il part-time di merda, 2 ore e te ne vai a casa! Ma che cazzo dici? A voi sta cazzo di cosa non vi vuole entrare in testa? Siamo a Prato, ai giorni nostri, 4 giovani precari, stanchi di sopportare le angherie di una società che li rigetta in continuazione, formano una banda nota alle forze dell'ordine come la Banda del Brasiliano, che il giorno successivo al ritrovamento del cadavere di un adolescente rapisce un funzionario pubblico senza chiedere un riscatto. Nessuno al momento immagina il motivo che li ha spinti ad agire. Girato con soli 2.000 euro, la cooperativa pratese John Snellenberg omaggia al poliziesco italiano anni 70, raccontando il male di vivere delle nuove generazioni. Da Cecchigori arriva il DVD, immagini di buona qualità nonostante le riprese con attrezzature non professionali, dignitoso l'audio. Tra gli extra segnalo un backstage, scene tagliate e un interessante cortometraggio diretto da uno degli attori, Luke Tahiti, intitolato Gioventù, droga e violenza, la polizia interviene. Invece un tuffo nel passato per guardare il prossimo futuro. Sta per arrivare nei cinema italiani il remake di Karate Kid, un cult di chi è stato ragazzo negli anni 80, e noi andiamo a riscoprire invece l'originale. Perché non me l'aveva detto? Detto che cosa? Che conosceva il karate. Non me lo hai mai chiesto. E da chi l'ho imparato? Da mio padre. Credevo fosse un pescatore. In Okinawa tutti i Miyagi conoscono 2 cose, pesce e il karate. Karate viene dalla Cina, 16 secolo. Si chiamava te, mano. E molto più tardi, antenati di Miyagi lo chiamarono karate, mano vuota. Io ho sempre creduto che venisse dai templi buddisti. Vedi troppa televisione. Danny si è appena trasferito a Los Angeles, si fa subito delle amicizie ma commette l'errore di infatuarsi dell'ex ragazza di Johnny, pericoloso e facoltoso coetaneo esperto in arti marziali. Anche Danny ama il karate e, addestrato dal serafico giapponese Miyagi, ne apprenderà i segreti, iscrivendosi a una competizione sportiva in cui affronterà nuovamente Johnny e la sua banda. dallo stesso regista del primo Rocky, uno dei film culto delle generazioni di adolescenti anni 80, da Sony Pictures Home Entertainment arriva il Blu-ray di qualità superiore al DVD, con alcuni momenti in cui la grana si fa maggiormente sentire, doppia traccia audio DTS italiano-inglese, entrambe ad alta definizione. Tra gli extra segnalo visione del film immagine nell'immagine con approfondimenti sulla lavorazione grazie alla presenza dell'attore Ralph Macchio assieme alla sua nemesi nel film William Zabka. E grazie allora Claudio, appuntamento la prossima settimana con le segnalazioni in un video. A presto, un saluto. E chiudiamo qui allora la puntata della Rosa Purpurea, questa puntata di Ferragosto con qualche novità cinematografica, con il meglio di quello che è stata la stagione che si è appena conclusa e un occhio già sul prossimo futuro, perché fra una quindicina di giorni si farà sul serio con una pioggia di film che arriveranno nei cinema italiani. Noi ovviamente saremo qui a parlarvene, grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.